Comunque, sì, l'idea di questi incontri era un po' di provare a ragionare su determinati processi che riguardano il mondo dell'istruzione in generale e anche dell'università in particolare, e non solo dell'università intesa come formazione in se stessa, però anche comunque l'università intesa come spazio fisico dove comunque succedevano cose, dove c'era un tempo in cui gli studenti si organizzavano qua dentro, questo era un posto centrale anche per la vita politica della città, che si facevano le assemblee, vi si riunivano i collettivi, veniva occupato nei momenti cardine. Tutto questo sta parzialmente sparendo per dei motivi, cioè per dei processi che sono stati anche coscientemente messi in atto e che sicuramente in quest'ultimo anno di pandemia sono stati molto, molto accelerati. Già comunque 10 anni fa, per chi se lo può ricordare un pochino sto posto, io me lo ricordo a malapena perché in realtà ho iniziato a vivere a Firenze solo recentemente, però essendo cresciuto qui vicino ogni tanto ci venivo, mi ricordo che era un posto totalmente diverso, frequentato anche da persone che non studiavano, era molto più vissuto, ci venivano fatte molte più cose. Poi hanno messo i tornelli alla biblioteca e magicamente tutto questo è scomparso. Fino poi ad arrivare agli ultimi 2 anni, in cui questo processo ha raggiunto quasi un culmine con quella che potremmo chiamare quasi l'equivalente della bomba atomica per l'istruzione, che è stata la didattica a distanza, in cui infatti in questo incontro ci soffermeremo in particolar modo. Vabbè, io non sto a parlare oltre, anche perché poi comunque avremo modo di discutere dopo e lascio la parola. Ridico qualcosa anch'io mentre proviamo il mixer partendo. Ma mi sentite? Io non mi sento, però voi mi sentite. Ok. No, partendo dal generale al particolare, questo progetto comunque è nato con l'idea di provare a capire le trasformazioni in corso di quest'ultimo anno, non solo legate alla contingenza dell'emergenza Covid, ma anche come, appunto, come diceva Mattia prima, come accelerazione di processi che erano già in corso da anni. È chiaro che un'emergenza come questa non, e la reazione soprattutto che il mondo ha avuto a questa emergenza non è che parte dal nulla, ma affonda le radici molto lontano. Questo vale in generale e vale nei vari ambiti che poi vorremmo trattare nei prossimi incontri. Per quanto riguarda il mondo della formazione, sicuramente appunto i processi che abbiamo visto, come dire, in maniera evidente e chiara a tutti, come appunto la didattica a distanza, sono processi che sono linee di tendenza che all'interno del mondo della formazione, in particolare dell'università, già esistevano e già c'era la volontà di andare in una direzione come quella che stiamo vivendo in questo anno. E quindi ne parliamo oggi con Silvano Cacciari, che fatto 2 chiacchiere prima, ci illustrerà anche appunto come, cioè qual è lo storico anche di questi processi in corso e in qualche modo appunto inserendoli in una prospettiva di più lungo periodo. Ok, bene. E allora lascio la parola a Silvano. Grazie, mi sentite? Ok, sì, un po' meno, però l'importante è che mi sentiate voi. Allora, prima di tutto vi ringrazio di avermi invitato per un motivo molto banale e così anche molto serio. Mi sono accorto che all'aperto veramente sono un paio d'anni che non parlo e non c'ero più abituato e insomma devo dire che riprendere contatto con la terra fa sempre piacere. Non sentite? Ah, devo dare proprio un bacino al microfono, ok. Prova? Va bene? Insomma, vi ringrazio di avermi invitato proprio per così farmi riprovare il contatto con la Terra. Sento un po' come l'astronauta che, no, è ritornato sul pianeta e un po' di cose sono cambiate. Questo è il primissimo aspetto. Il secondo aspetto è il tipo di, così, di intervento che ho preparato, che sostanzialmente mette in contatto quelli che sono, diciamo, i due tipi di esperienze che mi contraddistinguono, cioè l'aspetto professionale, quindi quello legato alla ricerca, e il fatto, insomma, di essere tra quelli che ha praticato da tempo il mediattivismo, le testate di informazione critica, cioè tutta questa dimensione dell'informazione indipendente, insomma, che anche essa mi ha portato fino qui. Quindi ho cercato di preparare un intervento che mescolasse un po' i due punti di vista. Ora, l'aspetto su cui mi focalizzo oggi è legato alla evoluzione della formazione in rapporto alle mutazioni del sistema universitario. Mi sono focalizzato sui sistemi universitari molto semplicemente perché gli altri sistemi formativi, lo 06, la primaria, la secondaria, sono veramente universi a parte che richiedono un tipo di riflessione molto differente. Invece i sistemi universitari hanno la caratteristica di essere più vicini a un discorso profondamente politico legato all'incrocio tra politica, mercato, innovazione, oltre che la dimensione, come si potrebbe, di quello che Foucault chiamava il dressage dei soggetti. Quindi c'è, cioè, nel momento in cui si osservano le mutazioni dei sistemi universitari, non vediamo solamente il cambiamento della didattica e quindi anche poi sostanzialmente delle forme di legame sociale legate all'acquisizione del sapere, ma vediamo anche in che modo mercato, politica e processi di innovazione stanno all'interno dell'università, rappresentando poi processi ben più generali. Quindi quello che a me interessava, diciamo, proporvi è proprio questo, cioè, ovvero sia una riflessione sulla mutazione del contesto formativo legata alla evoluzione del sistema universitario. Ora, lo sapete che ho un po' di problemi a baciare il microfono, insomma, un bel feticismo, però c'è, cioè, un limite a tutto, e noi dobbiamo stare attenti che i processi formativi non solo sono profondamente cambiati nel corso degli ultimi 30 anni, ovviamente tutte le volte parlo di processi formativi parlerò di università, ma soprattutto un sistema coerente di formazione, cioè intesa come Bildung, non esiste più perlomeno dalla metà dell'Ottocento. Voi dovete considerare che già Nietzsche, nella sua critica al sistema universitario, faceva chiaramente notare come un sistema coerente di formazione, quando dico coerente dico con i dipartimenti e le istituzioni universitarie coese attorno al medesimo scopo. C'è un'idea di Bildung, che poi è l'idea di Humboldt, un'idea humboldtiana di università, che nel mondo occidentale salta già dagli anni 50 dell'Ottocento. Quindi quando noi parliamo di formazione in questo processo, parliamo di un concetto che soprattutto è un contenitore dove un po', insomma, gli si dà un po' il significato che si preferisce. Per esempio, molto spesso a livello formativo si intende formazione come cittadinanza, formazione come processo di empatia, formazione come processo di formazione professionale legata al mercato e quindi a processi che sono molto diversi tra di loro. Quindi che cosa è successo? Cioè, quando noi parliamo di formazione e educazione ed evoluzione dei sistemi formativi, dobbiamo capire che lo stesso concetto di formazione cambia di significato a seconda delle culture che lo attraversano e quindi già di per sé perde coerenza. Questo è un aspetto importante perché tutte le volte che molto spesso si guarda questo processo con occhi rivolti al passato, un po' come l'angelo di Benjamin, parliamo di un qualcosa che ha una coerenza nel lontano passato, non nel presente o nel passato prossimo delle nostre società. In realtà le nostre società da tempo sono attraversate da processi formativi che non solo non hanno un significato univoco, ma addirittura ne hanno, come si potrebbe dire, di tipo contraddittorio. Quindi quando parliamo di formazione dobbiamo stare bene attenti quale accezione viene data a questo tipo di processi e soprattutto da quali istituzioni. Perché nel momento in cui la scuola primaria parla di formazione, forse abbiamo qualcosa di più vicino alla Bildung. Nel momento in cui già la scuola secondaria si parla di formazione, l'accento molto forte è soprattutto legato al mondo del lavoro, per non parlare dell'università. Quindi, come vedete, quando parliamo di formazione c'è già un'enorme difficoltà a orientarsi su un concetto che in realtà è un terreno mobile e scivoloso. Questo è il primo aspetto che noi dobbiamo considerare quando parliamo di formazione. Ora, chiaramente oggi, se mi fermo al sistema universitario italiano, ho capito che è la punta del microfono la più produttiva dal punto di vista della riproduzione del suono, e noi dobbiamo stare attenti a questo aspetto, che il nostro sistema universitario, cioè il sistema universitario italiano, è spaccato perlomeno in tre grandi tronconi: in punte di eccellenza dal punto di vista soprattutto nelle discipline economiche, in punte di sopravvivenza e in punte di, come si potrebbe dire, in elementi dove il sistema universitario vive solo ed esclusivamente in attesa dell'eutanasia economico-sociale. Tutto ciò è stato, ha subito processi di radicalizzazione nel momento in cui è arrivata l'emergenza Covid, per cui le punte dell'eccellenza hanno saputo riorganizzarsi, specialmente quelle legate al settore farmaceutico, non ci vuole molto da questo punto di vista a capirlo. Le punte di sopravvivenza hanno fatto enormemente fatica a sopravvivere, e una parte del sistema universitario, a mio avviso, difficilmente sopravviverà a questi anni, proprio per la difficoltà di sapersi legare a questa dimensione ormai innovativa. Perché Covid ha introdotto un'innovazione forte nel sistema universitario, che è quella legata alla concorrenza di mercato. Oggi, grazie alle didattiche a distanza, è molto più facile che gli atenei si facciano concorrenza rispetto al passato. Perché, voglio dire, è evidente dal punto di vista proprio banale, studentesco, ci sono corsi e ci sono università che comunque vada producono titoli che valgono più di altri. Magari in un prossimo futuro l'offerta formativa ha un costo più basso per chi è abbattuto dalla didattica a distanza, e si possono fare profitti magari vendendo corsi della Bocconi a Reggio Calabria. Questo è aspetto di grande importanza e di grande innovazione, gioco forza del sistema universitario. E badate bene, la nostra fortuna, tra virgolette, è che le università anglosassoni non hanno ancora capito come organizzarsi sul nostro territorio. Perché, tanto per intendersi, chi le vorrebbe una laurea dell'MIT a Messina? Tanti, non so se ci rendiamo conto da questo punto di vista. Quindi, cioè, noi abbiamo un Covid che ha spaccato un sistema universitario già fortemente fragile, e allo stesso tempo, come si potrebbe dire, un prossimo futuro di possibilità di immissione di concorrenza tra atenei impensate rispetto al passato. Quindi questa è la novità. Una novità che però è stata preparata da processi, come si potrebbe dire, di lunga durata, che sono a loro volta legati ad molte significative trasformazioni del capitalismo. Io per questo starei attento, guardando in prospettiva storiografica, a quello che accade nello scenario globale dei sistemi universitari tra gli anni 80 e 90. Cioè, dimenticate il muro di Berlino, Stravavice, le cose sono cambiate prima. Cioè, i sistemi universitari hanno cominciato a cambiare, cioè nei paesi soprattutto dove la parola sistema universitario ha un senso, e mi riferisco per esempio al sistema universitario tedesco e a quello americano, che hanno prodotto una rottura all'interno di un sistema che complessivamente dava prestazioni e, se vogliamo, anche emancipazione per tutta la popolazione. Una rottura tra cosa? Tra sistemi formativi e sistemi performativi, cioè performativi legati quindi a tutte le discipline e le tecnologie di mercato alle quali le università sostanzialmente aderivano. Questo è un processo tipico della seconda metà degli anni 90, che avviene molto prima, come si potrebbe dire, di quello che noi abbiamo chiamato un compiuto processo di globalizzazione. Quindi già dalla fine degli anni 80 i sistemi universitari nel mondo occidentale si sono spaccati in due, tra una dimensione formativa e una dimensione performativa. Ovviamente non ci vuole molto a capire dove sono finiti i soldi, diciamo, ossia il mercato ha investito nella dimensione performativa, anche perché il mercato è stato l'agente di trasformazione più importante per questo tipo di processi. Però guardate bene, stiamo parlando anche di un paradosso, cioè perché dall'inizio degli anni 90, cioè quando comincia la seconda globalizzazione, cioè quella che conosciamo come tale, abbiamo questo paradosso che vede da una parte la rottura dei sistemi universitari nazionali, e chi è interessato a studiare questi processi deve prima di tutto guardare quello che è accaduto negli Stati Uniti, e soprattutto nel momento in cui si è prodotta quella che negli Stati Uniti hanno chiamato la crisi delle humanities, cioè delle scienze umane, a favore della parte di sistema nettamente performativa. Però alla rottura dei sistemi universitari nazionali ha corrisposto, questo è l'altro paradosso, la concorrenza tra sistemi universitari. Cioè, per cui, facciamo un esempio, tre paesi, gli Stati Uniti, la Cina e la Germania, lasciando perdere in questo scenario il Regno Unito, che è un sistema particolare nel quale non voglio entrare, sostanzialmente hanno rotto l'unità dei loro sistemi nazionali tra formativi e performativi, però si sono fatti concorrenza tra di loro. Si sono fatti concorrenza fra di loro, ovviamente, per esempio nel caso cinese, per attirare più test dal punto di vista tecnologico, nel caso americano, quello di selezionare, come si potrebbe dire, i migliori talenti su tutti i piani, e il sistema tedesco un po' di essere un po' un incrocio tra entrambi. Quindi se noi dobbiamo dare un doppio canone di lettura a questi processi, cioè un canone di ricerca, però anche un canone critico legato ai processi di autoformazione, che cosa vediamo? Vediamo che nel momento in cui la crisi Covid è entrata nei sistemi universitari, ha frantumato un sistema che era già di per sé spezzato con la grande ristrutturazione degli anni 80 e 90. In questo modo riusciamo a capire, come si potrebbe dire, che l'evoluzione dei sistemi universitari va verso un Big Bang che è ben diverso da un modello di ritrovata coerenza attorno all'innovazione scientifica. E c'è anche un altro aspetto di cui a mio avviso dobbiamo tener conto, che questo processo, quello di saper dividere tra percorsi formativi e percorsi performativi, non è un processo di decadenza del sapere nelle nostre società, è un processo di ridefinizione del sapere, dove l'elemento connettivo, l'elemento anche di comando, perché non si tratta solamente di un'egemonia così sul piano dei saperi, ma si tratta proprio di un elemento di comando, è soprattutto dovuto a quelle che convenzionalmente vengono chiamate le scienze STEM, ovvero sia scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, cioè ovvero sia quello che è pensato come da una parte il nucleo duro della scienza postmoderna, cioè della scienza performativa, dall'altra il nucleo evolutivo che arriva alla seconda grande rivoluzione degli ultimi 30 anni, che ha anch'essa determinato una ulteriore mutazione dei sistemi universitari. Quindi questo è l'altro aspetto al quale dobbiamo gettare sicuramente interesse, ovvero sia l'immissione di criteri di rivoluzione 4.0 nei sistemi universitari. Ora, che cosa intendo di rivoluzione 4.0? Ora, a parte, a volte ho avuto delle discussioni, vabbè, sul piano della ricerca le discussioni non ce l'ha mai, non so se mi spiego, semplicemente devi fare, e quindi le discussioni sono semplicemente oziose. Mentre magari fra compagni la cosa un po' cambia, e mi ci ha anche voluto un po' di tempo per riuscirmi a spiegare con diversi compagni che la rivoluzione 4.0 esisteva. Cioè, già il fatto di riuscire a fermare l'esistenza è già qualcosa da questo punto di vista. Ma questo è normale, perché le novità è giusto che siano affrontate con senso critico. Però guardate, la rivoluzione 4.0 non è uno scherzo. Siamo a 4.0 perché è la quarta rivoluzione industriale dopo le precedenti, ed è quella sostanzialmente trainata da forti immissioni di robotica e di intelligenza artificiale nel lavoro, nella vita quotidiana, nella formazione, nel tempo libero, cioè in qualsiasi attività umana. Quindi, come vedete, stiamo parlando di qualcosa che è straordinariamente serio e che ha dei profondi effetti sulle nostre società e sui sistemi formativi almeno dalla metà degli anni 10. Quindi, quando parliamo di mutazioni, dobbiamo tener conto probabilmente di due tipi di calendari. Il primo calendario è quello legato alla metà degli anni 80, cioè nel momento in cui si spaccano i sistemi universitari, anche perché, diciamocelo, dal punto di vista capitalistico, i sistemi universitari non possono crescere più di tanto perché diventano straordinariamente costosi. Dal punto di vista sociale, la rottura dei sistemi universitari informativi e performativi ha comportato delle grosse, anche drammatiche, mutazioni. L'altra data, appunto, che dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto è la data della, come si potrebbe dire, evoluzione della rivoluzione 4.0, che invece ci cambia non solo i connotati della vita, ma anche sostanzialmente la, come si potrebbe dire, modalità con la quale i processi di intelligenza artificiale governano la nostra vita. Quindi questo è una dimensione che ha ulteriormente cambiato la vita universitaria, e infatti ve ne siete accorti come tutti questi processi poi facciano non solo parte della vita quotidiana, ma anche della vita formativa. Oggi utilizziamo molto di più le app per questioni formative del passato, siamo molto più condizionati dai loro dati del passato, le stesse università usano molto più i dati studenteschi che nel passato, e soprattutto a un certo punto ricordatevi che questo sapere è molto importante per l'evoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale. L'altra però questione straordinariamente importante che vi ho tenuto un po' in disparte, della quale dobbiamo renderci conto, che parallelamente alla mutazione dei sistemi universitari, una mutazione nella quale troviamo l'egemonia del mercato, l'emergere delle scienze STEM come scienze egemoni all'interno del panorama dei saperi, la rivoluzione 4.0, parallelamente a questa dimensione di forte mutazione dello statuto del sapere, ormai fatto di una performatività tecnologica, parallelamente a questa immaginazione del potere delle scienze umane, e anche parallelamente a questa rottura dell'unità dei sistemi universitari abbiamo un altro tipo di evoluzione spontanea della quale non possiamo non tenere conto nel momento in cui si parla di formazione. Ovviamente per formazione vi lascio, come si potrebbe dire, questa parola come contenitore vuoto e anche ambiguo, così come vi come si potrebbe dire, vi dicevo all'inizio di questo mio intervento. Allora, l'altro fenomeno è l'evoluzione delle forme della comunicazione. Quando parliamo di evoluzione delle forme della comunicazione, non stiamo parlando di qualcosa che genericamente appartiene alla sfera dei media, cioè anche da questo punto di vista. Soprattutto stiamo parlando di un qualcosa che ha a che fare profondamente con le modalità di formazione. Quindi quando evolvono le forme della comunicazione, evolvono anche le forme, le modalità e anche i contenuti della formazione. Ora, in questo senso, siamo in un mondo molto diverso dal passato per quanto riguarda l'evoluzione delle forme di comunicazione. Cioè, noi abbiamo, se ci fermiamo alla dimensione universitaria, a uno studente universitario, insomma, oggi noi si direbbe sostanzialmente nativo digitale, a parte alcune eccezioni, che è diverso dallo studente del passato, il quale aveva come forme della comunicazione, anche dell'apprendimento del sapere, il libro, il giornale, la lettera, la comunicazione orale, la telefonata di tipo analogico. Queste erano le forme della comunicazione che sostanzialmente regolavano la vita universitaria, l'apprendimento del sapere e le modalità di mediatizzazione delle forme simboliche. Oggi tutto ciò è completamente cambiato. È completamente cambiato perché oltre queste forme se ne sono aggiunte tantissime, iconiche, ben diverse da un uso dello scritto, del parlato del recente passato, istantanee, che hanno rotto il senso della distanza temporale, evolvendo verso forme simboliche digitali sconosciute anche fino a non molti anni fa. Io per esempio molte volte per lavoro mi incrocio con insegnanti che sono, non dico preoccupati, ma soprattutto sostanzialmente terrorizzati dal fatto che l'attenzione dei loro ragazzi è molto più rivolta al cellulare, alla PlayStation e altre cose che magari loro non conoscono. Cioè si accorgono che l'egemonia culturale è esercitata da altre forme simboliche. Questo non deve essere vissuto come terrore, e soprattutto non deve essere vissuto nel timore che tutto ciò faccia svanire l'autenticità del comunicare, l'autenticità del formarsi. L'autenticità del formarsi è una rete di saperi, una catena di saperi che oggi è estremamente più allargata rispetto al passato. Questa è una grossa novità da questo punto di vista qui. Io, cioè, per dirvi anche su come evolvono le offerte di formazione, a aprile ho chiuso un progetto, si può dire, non è un segreto industriale, ci mancherebbe altro, un progetto come Polo Tecnologico qui a Prato, dove i processi di formazione si fanno in un teatro 3D, cioè quindi in virtuale, ma in virtuale 3D, non in virtuale del passato, e dove questo tipo di corsi presuppongono una formazione universitaria che è in grado di evolversi fino a riuscire a fare lezioni in quella dimensione, e dove si entra in concorrenza con la stessa offerta formativa di altri paesi. Quindi io quello che vi posso dire da questo punto di vista è che questo tipo di forme che vi ho descritto sono irreversibili. Ora, per me è facile da questo punto di vista perché sì, ho un certo tipo di formazione, per carità, però da direi un discreto numero di anni ho una fortissima attenzione verso il tipo di letteratura che un tempo si chiamava cyberpunk e che non ha mai visto con tutto questo sospetto la smaterializzazione del mondo. Quindi per me è più facile riuscire a ragionare in questi termini a questo punto di vista. Però il punto fondamentale è che questa, come si potrebbe dire, catena di forme simboliche che forma oggi ciò che chiamiamo cultura è profondamente mutata rispetto anche al recente passato e determina i programmi formativi del presente e del futuro, per quello cui ho fatto questo esempio. Quindi noi abbiamo una doppia dimensione: rottura e evoluzione dei sistemi universitari, evoluzione delle forme simboliche del comunicare. Cioè Cassirer, se fosse ancora vivo, Cassirer è l'autore della filosofia delle forme simboliche, grandissimo testo per chi non l'abbia letto. All'epoca ebbi la pessima idea di leggere un tedesco, ci sono diventato scemo e poi mi sono ripreso, però lo ritengo tuttora un testo capitale per comprendere il rapporto tra forme del sapere cosiddetto autentico e mutazione delle forme simboliche che effettivamente producono sapere. Oggi, rispetto a Cassirer che scriveva questo testo un secolo fa, le cose sono molto cambiate, però dobbiamo sempre rendersi conto che un pensiero, per quanto sia critico, anzi soprattutto il pensiero critico, deve essere in grado, prima di tutto, nel momento in cui si posa sul piano della formazione, riuscire a capire qual è la mutazione delle forme simboliche che producono comunicazione, sapere e socialità. Questo è un altro aspetto di cui ci dobbiamo rendere conto. Quindi, qual è lo scenario, come si potrebbe dire? Possiamo vederlo in molti modi. Io, per esempio, devo dire che senza l'evoluzione delle forme tecnologiche contemporanee difficilmente avrei potuto seguire i corsi dell'MIT o di qualche università australiana di cui mi interessa il lavoro in termini di cultural studies. Questo non è povertà, non è inaridimento del sapere, è un profondo arricchimento. D'altra parte conosciamo tutti i disagi che sta producendo questo tipo di stanno producendo questo tipo di cambiamenti, cioè la svalutazione dell'esperienza universitaria, lo svuotamento del sapere appreso all'università. Questo sono tra quelli che pensa di esserne consapevoli, ma anche la difficile spendibilità magari in termini di esperienza reale, perché io su questo faccio una piccola divagazione. Mi ero divertito poco tempo fa a guardare i curricula di alcuni, come si potrebbe dire, esponenti delle varie maggioranze parlamentari degli ultimi 2-3 anni, no? Insomma, senza fare battute così di un certo tipo, mi sono accorto che ce n'erano alcuni che facevano una grossa difficoltà a orientarsi nel sapere e nella politica e avevano laurea e master anche di tutto rispetto. Ora io non voglio sacralizzare né la laurea né il master, però mi rendo conto che rispetto a un passato anche recente c'è una svalorizzazione dell'esperienza e del sapere contenuti nel percorso universitario che sono indubbie. Se pensiamo per esempio alla vita associativa dell'università fino poi a non moltissimi anni fa e la scomparsa di questo tessuto associativo perlomeno nel nostro paese, cioè quello che ti portava tutta la giornata, insomma, da questo punto di vista, cioè da solo ti riempiva non solo il calendario ma soprattutto ti riempiva di esperienze, di incontri, di conflitti, di linguaggi, di adrenalina, cioè tutto ciò è completamente scomparso, e lo si rivede anche nell'indebolimento e nell'impoverimento del sapere quotidiano, ma anche, come si potrebbe dire, anche il livello delle discussioni così terra terra è cambiato. Però dobbiamo anche capire che con questo tipo di rivoluzione, l'evoluzione delle forme simboliche, comunicative e della formazione è irreversibile. Non ci sono, da questo punto di vista, alternative, per citare la compagna Margaret Thatcher, no? Non ci sono alternative. Compagna, scherzavo, ovviamente. Dobbiamo cogliere anche la ricchezza di queste forme simboliche digitali per costruire un'esperienza formativa che parta dal cortile e finisca nella realtà virtuale. Solo questa è, no, un'esperienza formativa completa, cioè solo questa rimanda e richiama al concetto di Bildung, ormai scomparso nelle piaghe dell'Ottocento. Questo è l'elemento fondamentale. Ora io mi rendo conto, siccome so di poter fare anche un discorso politico, che tutto ciò appare sia lunare che impraticabile. Lunare, sono abbastanza presuntuoso a dire, conosco i dibattiti politici correnti, so che non c'è traccia di tutto questo. Tutto questo rimane negli interstizi della ricerca, dei progetti che riusciamo a far passare, nei curricula che riusciamo a far costruire, nelle lezioni che facciamo, cioè è qualcosa che rimane impigliato in una dimensione di ricerca dove l'egemonia del mondo STEM è assolutamente al momento incontrastata. Come so che diciamo la politica su tutti i piani ha anche un altro linguaggio con il quale a volte ci si rapporta con difficoltà. Però, e qui a mio avviso vale la pena di chiudere, siccome sono cambiate di molto anche le forme del conflitto e anche di tanto, siccome la capacità di saper incidere nelle nostre società su un piano politico ha alzato di molto la soglia della complessità necessaria appunto per incidere, io non posso che invitare a cogliere tutta la difficoltà di questo genere di complessità per potersi finalmente permettere di ripensare in termini politici. Perché guardate bene, pensare in termini politici è un lusso che oggi non si permette neanche alla politica istituzionale, che è completamente messa ai margini dal dominio della governance finanziaria. Basta vedere questo governo, insomma, ci si capisce. Quindi dopo l'esperienza così lisergica del Covid, siamo veramente in un mondo che rispetto a un anno fa è una dimensione distopica, e in questa dimensione dobbiamo saper cogliere il nesso cognitivo e politico. Ecco, qui mi fermo, spero, insomma, su alcuni temi io mi rendo conto che sono sia gergali che anche dal punto di vista di ricerca sono temi di nicchia, però la capacità del politico è quella di, permettetemi un gioco di parole, di politicizzare ciò che apparentemente sembra solo ed esclusivamente tecnico. Vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza. Grazie. Bravo. Faccio subito una domanda, se vuoi. Ma vai. E dalle tue parole leggo che per te la tecnologia, diciamo, che è un po' uno strumento neutro. E purtroppo però io sto iniziando a mettere in dubbio questa neutralità dello strumento, perché come sottolineavi anche te, sia i dati che appunto vengono emessi da tutte queste lezioni online che tutti i ragazzi, gli studenti fanno, sono a servizio effettivamente della formazione e dell'arricchimento della dell'AI, insomma, dell'intelligenza artificiale. Quindi sì, cercare il nesso logico, cercare il nesso politico all'interno di queste tecnologie mi sembra sempre più difficile e impossibile in qualche modo. Purtroppo sono processi irreversibili e che, cioè, hai fatto benissimo a sottolinearlo, anche io sono fermamente convinta di questo, però non vedo nemmeno purtroppo più niente di buono. Se negli anni Ottanta effettivamente la tecnologia poteva essere considerata lo scalino in più, il lavorare meno perché c'è la macchina, ora purtroppo siamo completamente assuefatti da tutta questa tecnologia e non vedo più la socialità, non vedo la convivialità, non vedo la formazione stessa e, cioè, anche conseguenza di questo impoverimento del sapere, che in realtà era un po' anche la domanda principale che volevamo porti, ma ti sei spiegato già largamente, non c'è più possibilità di questa analisi critica, che è il motivo anche per cui noi ci siamo trovati a voler organizzare questo tipo di incontri, per cercare di riaprire questo dibattito che effettivamente 20 anni, 30 anni fa era alla portata di tutti i giorni. Quindi è un po', non so, tutta questa fiducia nella tecnologia, non so dove riesci a prenderla, ecco, quindi era un po' la domanda che ti volevo porre. Allora, vediamo un po'. Io non dico che la tecnologia è neutra, è esattamente il contrario, che la tecnologia è oggetto di conflitto e quindi riesce a emanciparsi chi dal proprio punto di vista riesce ad essere egemone nella produzione e nell'evoluzione delle tecnologie. La tecnologia soprattutto non è neutra per un semplicissimo aspetto, cioè ogni processo tecnologico contiene dentro di sé l'idea di legame sociale che l'ha prodotto. Vi faccio due esempi banali tratti dalla comunicazione degli anni 90. La televisione è un'idea di comunicazione a uno a molti, da uno a molti, che trova poi una cristallizzazione, un'evoluzione sul piano tecnologico. Nel momento in cui nasce internet, ovviamente c'è un processo di comunicazione e anche, se vogliamo, di suburbizzazione da molti a molti, che trova a sua volta una cristallizzazione e un'evoluzione tecnologica. Quindi stiamo molto attenti a questo passaggio. La tecnologia non è proprio perché la tecnologia non è neutra, dobbiamo stare molto attenti a dove e come operare gli elementi di conflitto, altrimenti il processo di subordinazione è assicurato. E qui mi permetto di dire una parola in più, ringraziandoti molto della domanda. Dov'è oggi il terreno del conflitto? Perché questo è l'aspetto fondamentale. Ora, questo è un terreno non di conflitto, non so se mi spiego. Il terreno di conflitto è completamente cambiato. Anche una manifestazione di 100.000 persone, che magari si fa tutte le vetrine di una città, eccetera, eccetera, è un fortissimo elemento di criticità sociale, ma non lo è nel momento in cui non aggancia la dinamica, come si diceva in un certo linguaggio, di ricomposizione del capitale. Perché oggi l'elemento di conflitto passa da cose apparentemente banali, però profondamente devastanti. Vi faccio un esempio. Chi ha deciso le coordinate etiche, politiche, biopolitiche degli algoritmi che utilizziamo? In questo, perché noi gli algoritmi qui ne utilizziamo parecchi, come sappiamo sono loro che usano parecchio noi, ma chi li decide questi algoritmi? Il conflitto è lì, cioè il conflitto è sulla capacità di decidere gli indirizzi etici, culturali e sociali degli algoritmi. Vedete che non è neutra la tecnica, no? Ma esattamente lo strumento dove avvengono assieme due caratteri profondamente paradossali: il massimo di sterilizzazione del conflitto e il massimo di possibilità di operare conflitto, proprio perché si entra sul piano della tecnica. Ora, non vi sto a rompere le scatole sulla produzione scientifica che c'è, non solo sulla regolazione etica degli algoritmi, ma anche sulla regolazione politica, che è un profondo terreno di conflitto. Ma vi racconto una semplice storiella di una settimana fa. Stavo facendo una call con un carissimo amico e compagno e collega che lavora in Inghilterra, no? Compagno, io non so come sia riuscito a mantenere l'accento romanesco così bene, nonostante che ormai sia 10 anni in Inghilterra. Vedete la potenza della comunicazione di rete, no? Questo probabilmente fa una call con i suoi vecchi amici. Ah, oh, dove stai? Stavate. Quindi, detto questo, questo compagno ha scritto un testo dedicato ai processi di resistenza, molto foucaultiano, e lo sta presentando in questo momento su uno dei tanti canali streaming. Ho detto, guarda, mi dispiace, non ci sarò, perché sono da questi compagni. E insieme analizzavamo, come si potrebbe dire, un processo molto importante dal punto di vista industriale, cioè ovvero sia un video dove si testavano le macchine senza autista, cioè quella che è una dimensione del mercato che si stima essere dominante perlomeno dalla seconda metà degli anni 20. E insieme con Marco, così si chiama questo compagno, analizzavamo le figure sociali che erano presenti al test sulle cose, mi si chiama, sì, perché non lo voglio dire in inglese perché diventa pessimo, sulle macchine senza guidatore, ok? Lo dico alla livornese, si fa bene. Ora, tutte queste figure erano figure profondamente economiche e politiche. Le uniche figure che mancavano erano i lavoratori, i sindacati, quello che si chiama l'opinione pubblica, gli studenti, la formazione. Non erano ammessi alla fase di test delle macchine senza autista. Invece c'erano tutti i portatori di interessi tipici del capitalismo 4.0. Se, e qui ormai, siccome mi è venuto a mente il romanesco, se siamo interessati a capire dove sta quello che i compagni romani chiamano il conflitto, è lì. Cioè esattamente in questa dimensione apparentemente inafferrabile, per esempio, dove si testano i prototipi e dove si decidono gli algoritmi. È chiaro che, e lì ragionavamo, del livello di sindacalizzazione avanzato che si necessita rispetto al passato. Perché c'è bisogno del lavoratore, hai bisogno del mediatore culturale, hai bisogno del mediatore tecnologico, però capisci anche qual è la complessità dei nuovi processi di relazione conflittuale. Per questo dicevo, è un fenomeno proprio faticoso da concettualizzare, ma che ci aiuta sul piano delle nuove tipologie di conflitto. E qui chiudo questa parte su una cosa. Noi siamo stati abituati dai testi sacri, Marco Furio me ne è testimone, che nelle società industriali le cose andavano più o meno in questo modo: accadevano le lotte, accadeva la ristrutturazione e poi successivamente apparivano le nuove lotte nella ristrutturazione. Questo ciclo da tempo ha subito una profonda sutura. È chiaro che per un profondo processo di sutura, è chiaro che per riaprire la dimensione del conflitto dobbiamo entrare entro questa dimensione, ma già dal piano formativo, che insomma è una scommessa secondo me di grande interesse teorico e politico. Ci vuole il microfono? Sì, dai, almeno. Se non ti sento, una visione troppo banale. Ora, a parte il fatto che io in realtà non ci avevo devi baciare come fanno i rap, sì. Come sì. Fanno, bravo, va bene, sì, si sente, sì. E poi ti devi fidare che non ha colera, ma se ce l'hai Ebola. Allora, no, io non, in realtà sull'algoritmo e su questa cosa non ci avevo mai riflettuto, che comunque importante. Però riportando un po' sul piano del discorso, perché si parla di formazione e formazione online, che è una cosa che in America va anche oltre proprio rispetto a qua. Cioè quello che le volevo chiedere è comunque quello che mi ha fatto riflettere a me in questo periodo di didattica a distanza è, secondo lei, cos'è che toglie rispetto a comunque alla formazione e alla didattica di presenza, alla didattica, alla pedagogia, all'educazione, mi viene da dire di presenza. Io riflettevo prima ovviamente di sentire questa conferenza soprattutto su queste cose qua, cioè sulla relazione, comunque una dimensione fisica ti dà e una dimensione non fisica a tutti gli effetti non ti dà, e quindi la vedevo un po' più qua proprio il conflitto, cioè c'è un cambiamento forte, uno svuotamento, uno scarnificare, un togliere in modalità svantaggiosa rispetto a un'educazione tradizionale, chiamiamola così. Questo volevo. Allora, ti ringrazio, permettimi di notare una cosa molto curiosa. Ormai al lavoro tutti tirano del tu e tra compagni tirano del lei, c'è qualcosa che è cambiato da questo punto di vista, però ve lo dico assolutamente in amicizia. Allora, ciao, stiamo attenti. Innanzitutto internet, prima ancora della didattica a distanza, internet nasce come strumento di guerra da utilizzare nei momenti di crisi. Chiaramente col Covid ha assunto canonicamente la sua funzione originaria, però allora ci sono due aspetti che dobbiamo considerare. L'immissione della didattica a distanza è una riorganizzazione, una ristrutturazione dell'uso dello spazio. Su questo non ci sono santi. E soprattutto è una rottura e una frammentazione dei nessi di socialità face to face precedenti. Su questo ce ne siamo accorti tutti. Ne parlavo anche prima. Ci sono delle persone al quale magari facevi lezione e ora riconosci solamente la sigla, cioè, anche per noi è un po' spersonalizzante da questo punto di vista, no? Cioè, prima perlomeno già vedevi una faccia, ora riconosci la sigla e devi stare attento tra quelli che hanno sigle identiche, capire, che ne so, MS quale studente è, MS quale altro, eccetera eccetera. Quindi c'è una come si potrebbe dire, è stata una profonda ristrutturazione dei processi spontanei di socializzazione e anche di riconoscimento, perché l'elemento del riconoscimento è fondamentale dal punto di vista dei processi di apprendimento. Ora, a questo punto viene da dire una cosa, è evidente che di fronte a questo processo dobbiamo essere consapevoli del fatto che i processi di socializzazione non avvengono più in automatico. Cioè, in poche parole, non ci si trovava più al bar come prima, anche se stiamo parlando università. Io vi faccio un esempio banale. C'è tanta gente che prima del Covid ritrovavo spontaneamente al bar e non avevo bisogno di messaggini, telefonate, emoticon e Dio solo sa cos'altro. Oggi non la trovo più. E anche dal punto di vista lavorativo, il fatto di vedersi, vi posso assicurare, è diventato più un evento che la routine. Quindi, se si vogliono riprendere i nessi formativi legati all'esperienza personale, questi nessi vanno riorganizzati. Per esempio, riuscire a coinvolgere i propri colleghi, gli studenti, in processi di discussione dal vivo di quello che è avvenuto online. Perché anche questo è molto importante, perché io ve lo dico, posso dire tranquillamente in questo anno e mezzo, di aver visto studenti che facevano una grossa fatica a comprendere alcune cose offline, a comprenderle bene online, e alcuni che in aula sostanzialmente capivano tutto, si sono ritrovati in una dimensione offline con online con grandissima difficoltà. Quindi la forza sta nel saper organizzare processi di riorganizzazione della socialità. Per cui uno dice va bene, via. Dal punto di vista conflittuale uno può chiedere che siano obbligatori alcuni seminari di valutazione o offline della didattica a distanza. E le cose vanno anche organizzate bene, perché oggi, se come vi siete accorti, l'esperienza dal vivo non è esattamente l'esperienza di quando eravamo ragazzi noi. Per cui quando siamo dal vivo molta gente consulta il cellulare, c'è bisogno di qualche genere di conforto, c'è bisogno di aperitivi, c'è bisogno di un bar volante, c'è bisogno di tutta una serie di cose che trattengono le persone in uno spazio. Perché oggi il processo di trattenimento delle persone sullo spazio non è così automatico, neanche in famiglia, perché voi sapete benissimo che nelle famiglie tradizionali si è inserito questo processo per cui babbo, madre, figli, addirittura a volte tutti e quattro guardano lo stesso cellulare con la televisione accesa all'ora della cena. Quindi non è poco come processo di trasformazione antropologica. Quindi saper ricostruire spazi, saper ricostruire occasioni di presenza nel momento in cui ovviamente queste occasioni sono venute meno, perché la gente poi alla fine, se mi permettete una battuta molto banale, se le occasioni ci sono sta bene insieme ad altre persone, cioè la socializzazione è un processo naturale, semplicemente va riorganizzata di fronte a un mondo che è cambiato, perché ovviamente la ristrutturazione della comunicazione digitale ha lo stesso peso della ristrutturazione urbanistica, per cui se voi aprite o chiudete un palazzo cambiano i rapporti sociali, se voi aprite o chiudete l'offline cambiano i rapporti sociali. Su questo uno ci deve lavorare, però anche entusiasmante, diciamoci le cose come stanno. C'è. Dai, cerco di parlare a voce alta. No, volevo fare una considerazione e sapere cosa ne pensi per quanto riguarda la questione dell'intelligenza artificiale. Mentre tu parlavi, a un certo punto ho avuto, sai, quel flash che l'intelligenza in generale, di un'intelligenza umana, è il paradigma dell'artificialità. Okay. Cioè, quando si parla di qualcosa di artificiale è perché l'intelletto umano ha costruito qualcosa, ad esempio una casa, invece di infilarsi in una grotta, no? La grotta è naturale, la casa è artificiale perché l'uomo ha fatto un progetto e l'ha costruita. Quindi l'espressione intelligenza artificiale quindi è strana, è fuorviante per certi versi. Cercavo un'espressione più specifica, io parlerei di riproduzione artificiale dell'intelligenza. Okay? Cioè che cosa fa l'intelligenza artificiale di fatto? Cioè le ricerche sull'intelligenza artificiale creano macchine o forme di macchine, quindi algoritmi, che riproducano gli effetti, i comportamenti dell'intelligenza umana e anche dell'intelligenza animale. Allora, qui mi preoccupa la conseguenza, quindi, di quello che hai detto te, cioè del fatto che questa produzione artificiale dell'intelligenza sta diventando pervasiva delle nostre vite, quindi ogni oggetto che abbiamo è intelligente, smart, no? Quindi lo smartphone, le smart cities, eccetera, eccetera. Quindi che cosa indica il termine smart? L'implementazione delle ricerche di intelligenza artificiale nel quotidiano, dal telefono, alla città e così via. E l'impressione è che più condensi intelligenza negli oggetti e più ne guidi in qualche modo l'utente, cioè la tecnologia, si diceva prima, la tecnologia è neofermina, la tecnologia può essere progettata in tanti modi diversi, allora c'è un tipo di progettazione che mira alla totale dipendenza dell'utente da chi ha i codici di quelle tecnologie e tecnologie invece progettate lo vediamo anche nell'informatica, un conto sono i software proprietari, no? E un conto sono gli open source, per quanto poi lo stesso capitalismo sull'open source, come dire, ne approfitta a sua volta, però comunque rappresenta un tipo di tecnologia su cui si può mettere le mani. Allora io mi domando, questa pervasività della rivoluzione artificiale dell'intelligenza può avere appunto un utilizzo che non sia semplicemente passivo? Cioè, come si fa a prendere in mano i codici di questo tipo di tecnologia? In realtà è un tipo di tecnologia molto astratto, cioè che si basa su modelli che comunque se li può studiare, insomma, e anche riprodurre, non so, non è nucleare, ecco, per cui ci vogliono le risorse dello Stato, ok? È un tipo di tecnologia molto più cheap, molto più economica anche da riprodurre, se un computer lo vediamo con la come dire, con la produzione videoludica, viene in mente, una produzione sterminata con tanti utenti, con tanti produttori piccoli che poi fanno il pazzo, eccetera. Allora, come è possibile questo? Se è possibile, oppure appunto questa produzione artificiale di intelligenza ci priva a noi di un'intelligenza? Non so se... Allora, io sono preoccupato di quella che è, possiamo chiamare così, la polverizzazione delle esperienze e delle capacità cognitive verso soggetti che non mi sembrano esattamente consumatori di intelligenza artificiale. Poi andiamo a vedere i problemi dell'intelligenza artificiale. Allora, la prima cosa che ho fatto stamani mattina... mi sono guardato i sondaggi elettorali e ho visto che Fratelli d'Italia aveva il 20% di intenzione di voto. Per un partitino che non esito a definire neofascista, formato da dementi e sradicati socialmente parlando, questi mi preoccupano. Ci sono esperienze di deprivazione sociale nell'elettorato di Fratelli d'Italia, ma anche nella Lega, che sono significative. Questo è un aspetto a cui dobbiamo tenere conto. Ora, il rapporto con l'intelligenza artificiale è un rapporto molto particolare, innanzitutto perché l'intelligenza artificiale ha cominciato a apprendere. Questo è un aspetto non secondario, eh? Poi se andiamo a vedere dal punto di vista lavorativo, ormai da anni l'intelligenza artificiale non è più semplicemente la sostituzione, come si potrebbe dire, del lavoro stupido attraverso una macchina, ma è l'assunzione di e anche la sostituzione di forme intelligenti del lavoro. Questo ci cambia molto, ci cambia in negativo nel momento in cui intere masse di sapere diventano obsolete. Vi faccio un esempio molto particolare. Negli Stati Uniti, fino a pochi anni fa, all'interno degli studi legali, ma insomma quelli che vediamo nelle serie TV e nei film, c'era un certo tipo di archivista il cui lavoro era molto prezioso dal punto di vista dell'istruzione delle pratiche e soprattutto molto ben pagato. A partire dalla metà degli anni 10, con un software che costa $40, questa figura, come si potrebbe dire, professionale è scomparsa, e con lei questo genere di stipendio. Questo è un problema. Problema grosso. È un problema di, come si potrebbe dire, di soluzioni di sapere, esperienza, nessi di socializzazione e poi anche di distruzione di posti di lavoro intelligenti. E una società, quando si distrugge un posto di lavoro intelligente, è una grossa perdita dal punto di vista della ricomposizione sociale, per non parlare poi della politica. L'altro aspetto è che l'intelligenza artificiale aiuta a lavorare con intelligenza, con maggiore intelligenza, e questo è l'altro aspetto. per esempio, io mi sono dovuto occupare quest'anno anche dell'evoluzione delle forme di intelligenza artificiale che ruotano attorno al giornalismo. Ora, io ho un pessimo giudizio sulla professione giornalista, probabilmente molto simile a quello che aveva Karl Kraus, però devo anche guardare come funzionano i processi. Allora, i nuovi sistemi di intelligenza artificiale a supporto della professione giornalistica hanno ovviamente fatto una strage di lavoratori, anche perché basta che utilizzate lo smartphone, vi rendete conto che le notizie sono intelligentemente impaginate da sistemi artificiali e a sua volta spesso intelligentemente scritte da sistemi artificiali. Però negli umani rimasti in questo tipo di processi, sia l'editing che il processo proprio creativo di costruzione della scrittura sono enormemente supportati dall'evoluzione di questi sistemi che ti aiutano a scrivere meglio, in modo più intelligente, creativo, dandoti anche la possibilità di aggiungere qualcosa di tuo e di originale. Quindi, dal punto di vista dell'emancipazione sociale e politica, è evidente che questi strumenti devono uscire da una dimensione di nicchia professionale e diventare un elemento di socializzazione, perché io il grande timore che ho per i prossimi anni, che è un timore tipico su ciò che accade durante le ristrutturazioni liberiste, che stiamo producendo una società dove, nonostante i titoli universitari, nonostante ciò che si può esibire formalmente, sia profondamente ignorante rispetto a se stessa e alle proprie evoluzioni, proprio perché non ha gli strumenti adatti. Questo è il grosso problema, quindi bisogna saper riconoscere, sono d'accordo sul senso di quello che diceva Matteo, ciò che l'intelligenza artificiale distrugge nella capacità di saper connettere, se mi permettete questo genere di parola, però anche bisogna saper cogliere dove è possibile utilizzare questi strumenti per essere più creativi, più intelligenti, più originali. Intanto mi è piaciuta molto la tua ricostruzione. Mi è venuto, cioè, così mentre ascoltavo anche un po' il dibattito, questo dubbio. Comunque, se proviamo a considerare un po' tutte le grosse istituzioni che governano la nostra vita, l'università sembra l'unica che i compagni hanno così tanta ansia di salvare. Cioè, comunque, non lo so, non molti sono affezionati a prigioni, ospedali, l'istituzione fabbrica, cioè sono tutte istituzioni che se ce ne potessimo ce ne libereremo domani. E quindi mi è venuta così, e te la voglio lanciare anche lì in maniera un po' provocatoria. Ma cioè, davvero abbiamo così tanto bisogno di un modello di formazione che è costruito in questo modo? O non dovremmo forse cercare solo di prenderne quello che alla fine in questi anni sono stati un po' gli aspetti collaterali che tanto bene hanno portato? Perché, come diceva anche all'inizio, comunque nelle università è stato anche sviluppato un certo tipo di sapere critico, almeno fino a un certo punto, viene fatto tuttora, nel senso tu lavori dentro l'università, eppure mi sembra che quello che dici comunque presenti tanti spunti anche dal punto di vista di una persona che più o meno vuole rovesciare il mondo. Però abbiamo così tanto bisogno dell'istituzione università, o dovremmo forse avviare un processo che punti a ripensarla totalmente, non solo l'università, ma in generale l'istruzione in forma autonoma? E lo dico anche perché comunque cioè, noi oggi abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa qua dentro, però penso che nessuno di noi qui ultimamente, negli ultimi anni, abbia mai partecipato a forme di lotta studentesca o comunque forme di mobilitazione universale di un certo tipo. E sinceramente, oddio, io forse sì, ma non qui a Firenze. E comunque, se non è stato fatto, secondo me c'è anche un motivo. Cioè, mi sembra che proprio antropologicamente la figura dello studente sia cambiata tanto, socialmente la figura dello studente universitario è cambiata tanto, non è più, cioè non vedo più quella che Alquati chiamava l'università di ceto medio, dove comunque si andava a formare tutto un certo tipo di anche di soggettività proletaria che poi veniva buttata nel mondo del lavoro. Mi sembra che ci sia totalmente stata cancellata questa fase. E, boh, non lo so, magari c'è uno spunto che può far nascere qualcosa, magari è solo una stronzata che mi è venuta così sentendo la discussione. Ti ringrazio, non mi ero accorto di rovesciare il mappamondo. Mi ricorda un film bianco e nero degli anni 30, però ci sono alcuni aspetti che dobbiamo considerare. Allora, innanzitutto bisogna essere netti, le nostre società sono società che producono grandi masse di sapere, non è facile restarci vivi, ma non è neanche facile uscirci, cioè, per cui, cioè, io, se proprio la vogliamo vedere da un punto di vista metaforico, utilizziamo la metafora dell'Ilva di Taranto, insomma, che tanti lutti, no, ha addotto ai poveri tarantini. Ora, come voi, se avete seguito un attimo questa lunghissima storia, io penso molto difficile anche da ricostruire, ma anche straordinariamente importante, sapete che anche se l'alto forno venisse spento domattina, e magari, permettetemi una battuta, buttandoci prima dentro almeno uno dei due componenti della famiglia Riva, non è che l'inquinamento cesserebbe il giorno dopo. L'inquinamento ha bisogno di un profondo e lungo processo di bonifica. Cioè, quindi il stesso discorso per esempio è stato fatto per Bagnoli: nel momento in cui l'acciaieria chiuse, i processi di bonifica di Bagnoli durano ormai da molti anni. Ora, la metafora dobbiamo applicarla ai sistemi universitari, cioè, per cui l'università non è che la possiamo chiudere, anche se decidiamo di chiuderla oggi, il processo di bonifica è molto lungo, semplicemente perché le nostre società e le successive sono società che vivono di grandi masse di sapere che vanno riprodotte, vanno rigenerate e soprattutto vanno rese entro processi di tipo egualitario, altrimenti vi potrei consigliare un paio di serie TV dove intervengono anche gli alieni nel processo di devoluzione della razza umana, però qui si entra in un piano più strettamente narrativo. Però, battute a parte, è vero che nella crisi e soprattutto esattamente in questi momenti di mutazione che si ripensa il ruolo di ogni istituzione, compresa l'università. Quindi colgo positivamente lo spirito della domanda che mi è stato fatto. Vai, dell'urla. No, volevo fare una chiosa rispetto alla domanda che ha fatto, perché mi ha fatto venire in mente il periodo del movimento No Global nel 99-2001, dove effettivamente tutto si muoveva tranne all'università. L'università non era minimamente il centro della cosa, e anzi era abbastanza non considerata la generazione a cui io stesso appartenevo, quelli che avevano tempi fra i 20 e i 25 anni, ok, facevano politica ovunque tranne all'università, cioè collettivi universitari non ce n'erano tanti, non facevano questa cosa, in un periodo in cui c'era grossa movimentazione che appunto ha portato comunque al G8 di Genova, ma tutta la parte precedente, almeno quella di volta per esempio in città, la gente era attratta dagli spazi sociali, da stare in piazza, da altri tipi di dinamiche anche. Quindi cioè, mi ha colpito la tua osservazione, perché mi ha fatto dire forse appunto non è nell'università il posto dove stare, cioè comunque è una domanda da porsi seriamente, anche rispetto al parallelo che hai fatto, tante istituzioni se ne potrebbe fare a meno forse anche dell'università. Ho visto, guarda, proprio recentemente è uscito un libretto, probabilmente attento al fatto che tra un mese e mezzo c'è il ventennale del G8, ai movimenti cosiddetti no global, no? È interessante in quel periodo vedere come soprattutto, cioè più che l'istituzione del sapere, siano state messe sotto critica le istituzioni della governance politica internazionale. Cioè in quel periodo l'università ha un altro ruolo, cioè che quello di legittimare sostanzialmente sul piano della credibilità scientifica la protesta. Cioè io mi ricordo molti docenti, sì vabbè, marcatamente di sinistra, cioè non ci vuole molto a capirlo, però sostanzialmente sganciati da organizzazioni politiche, reti, eccetera, eccetera, semplicemente si prestavano ad essere, diciamo, la voce del sapere che legittima quel tipo di movimento. Anche il forum del 2002 qui a Firenze, questa dimensione era palpabile, diciamo, quotidianamente. Cioè, oggi le cose sono completamente diverse. Mi risparmio un'analisi sul movimento no global, perché è stato forse l'ultimo movimento politico di massa che ha attraversato questo paese, ma è evidente che c'è un rapporto tra crisi della fruizione pubblica del sapere e crisi dei movimenti che sta nelle cose. Ti sento, Marco Furio. Che lo dice l'uomo di secolo scorso è la composizione di classe dell'università. Nell'università nel 2011-2099 eccetera era già cambiata la composizione di classe. 20 anni prima lo studente medio del 77, a parte di veniva all'università uno o due anni per rinviare il servizio militare, questo non va mai dimenticato, perché non gliene fregava un cazzo di usare l'università come trampolino di empowerment o di scalata sociale. Mi spiego? Questa variazione dal punto di vista della composizione economico-politica è avvenuta più o meno nell'ultima vera guerra indiana. Il nostro Udemy è stato l'85, quando è cambiato il calcolo delle tasse dei fuori corso. Fino all'85 si pagava la tassa di ricondizione, esami che erano 3.400 lire. Voglio dire, costava 1.200 lire andare a mangiare la casalinga, per capirsi il livello di grandezza, e te potevi fare il fuori orso tutta la vita se avevi finito l'esame. Infatti, io mi sono laureato il 6° anniversario dell'istituto, cazzo me ne fregavo. Allora, Questa è stata l'ultima guerra indiana. Persa la battaglia della finanziaria e passato questo, naturalmente la composizione, definiamola parcheggiante, del soggetto politico a casa è utile. Il secondo passaggio è stato nel 90, quando l'ubriacatura della fine delle ideologie ha portato, io posso parlare su questa parola, ma è tanta roba tra qui e lì, rappresenta Firenze. La gente ragionava in termini, voglio produrre anche io voglio studiare perché devo diventare classe dirigente e sarò di sicuro meglio di estare. Ancora una volta, la posizione sociale medio bassa, stavolta sparisce anche la classe media. Poi di fraude. E ci abbiamo i figli dei laureati. Mi spiego. Tant'è vero che, se volete, i collettivi studenteschi sono attestati nelle scuole medie di centro. Galilei, Michelangelo, Capponi, con una puntata forse di Dodolino e Terzo Liceo, che però sono sul bordo dell'accampamento di ieri. Ai piano per dire che sì. No? Vai a parlare con Capponi e gli dici dai volantino, ai piano ti chiede, ma io che ti dirò con il piano? Io sono sega io che sei curioso di sapere come vive. Curiosità di sapere come vive, che consente per esempio lo scontro di generazioni insieme agli altri due soggetti, via. Allora, il futuro che viene prospettato dalla vostra mano sul cacciare è la scelta fra Gibson e Giad Lutheriano, perché si arriva a cercare se era Google, quindi non c'è pezzo. Cioè la razza si difende di fronte alla pandemia, di fronte a una peste di 300, me la hanno tutti i testi sani, sono soltanto la bestia di 400, quell'altro dopo che considero testi, no? Però qui alla fine ci sarà il Giada Lutheriano, per chi non è pratico di letteratura di fantascienza, è la cosa importante di cui me, a un certo punto gli uomini si ripetono ai computer e fanno sparire tutti i computer e le funzioni di hacker vengono date a uomini appositamente addestrati a fare i calcolatori elettronici, perché con la conseguenza di organizzazione della società interna. Io avrei una proposta anche in questo caso, diamoci alla macchia tutti alternativi, non ce ne sono. Per cui, come si dice, si va sempre a vedere e ho sentito composizione di classe, quali sono gli interessi, perché oggi le lotte le fanno i pakistani a Prato, convince un italiano a Prato a supportare i pakistani, divide la sfuggita. La cosiddetta militanza della Perello e fino alla cerca, comunque io ho le sette da fare, no? E quindi via. Cioè, o qualche un altro, esistono anche questi invece, che la capiscano in termini cattolici di buttare il cuore fosse uno stavolo, usare il corpo come arma di lotta, però è rischioso. Poi come si esce da tutto? Cercando di non avere il mito dell'efficienza, di avere il riscontro immediato. Cioè a noi non dovrebbe più interessare pensare in termini di ciò che è giusto, ciò che è ragionevole, ciò che si può fare. Si tratta di ricominciare a pensare in termini di ciò che ci piace e di ciò che ci interessa. Perché io sono un libero dai primo dicendario che ha smesso di lavorare. Prima è molto perché lo stipendio fisso è più grande al caso che voglia la lusso Iervolino e della veste del servo. Cioè non esiste il metatono a tutti. Per cui e sei libero se non lavori. Infatti si può farlo quel cazzo di fa. A me tutta questa retorica di lavoro manca. No? Tutta questa retorica di lavoro si deve realizzare un po'. E da quando avevo 14 anni mi sembrava più chiaro. Però sono un uomo di siano stolto, perché questo di lavoro ci sono cresciuto. Fare buonanze rifiuto di lavoro. Allora, l'intervento di Marco Furio, oltre a mettermi sempre di buon umore, ovviamente, come si potrebbe dire, accende la componente di amministratore politico che è nel sottoscritto. Allora, c'è l'aspetto, io mi sono domandato seriamente nel corso degli anni come mai i soggetti che interessavano, e qui mi permettete una parola che so che è una bestemmia, però mi devo tenere in termini generici, come mai i soggetti che interessavano a sinistra puntualmente finivano dall'altra parte. Io per esempio mi sono visto finire nel Movimento 5 Stelle tutta la letteratura sociologica che il post-operaismo ha fatto dalla fine degli anni 90 fino sostanzialmente all'inizio degli anni 10, tutta, e non è stato un bel vedere da questo punto di vista. Come ciò che chiamiamo ancora convenzionalmente, facciamo bene a chiamarli ancora così, i proletari, siano sostanzialmente oggi cosa? Il granaio di voti e di comportamenti utili alla destra, e per quanto mi riguarda ciò che convenzionalmente oggi è chiamato destra in realtà è estrema destra. Quindi non è che sia scomparso il potenziale critico, ma non nel senso adorniano, il potenziale conflittuale delle classi subalterne, ha traslocato in modo perverso da un'altra parte. Cioè, questa non è una società in assenza di conflitto, eh? Cioè, ci può credere fra due anni, con tutto rispetto, poco, bisogna anche dire la verità. Questa è una società profondamente conflittuale, dove l'elemento critico della conflittualità, e vi dirò di più, cioè quell'elemento che crea anche delle crepe sistemiche, è finito a destra. Cioè, ragazzi, ma quando io stavo 3 anni fa, mi ricordo un seminario che abbiamo fatto proprio lì a Prato sulla composizione sociale del voto, il primo partito operaio, cioè di ciò che ancora oggi è classificabile come operaio, era il Movimento 5 Stelle, il secondo la Lega, e 5 anni prima il primo grande partito operaio era Forza Italia. Allora, qui i fatti sono due: o diciamo che le classi subalterne sono diventate irrimediabilmente stupide, come per esempio, tanto Marco ci si capisce, con alcuni compagni tedeschi, alla fine poi la discussione finiva lì. Loro ti dicevano: la classe operaia è ormai irrimediabilmente sussunta dal capitale, ci sono le forme di alterità che dobbiamo garantire. O facciamo questo ragionamento, che è vecchio di 30 anni, ma si può anche riproporre, oppure c'è qualcosa di grosso che nel metodo per fare politica non funziona. Cioè, io vi ripeto, voglio essere anche provocatorio, cioè, ma è possibile che tra un gruppo di compagni e personaggi come la Taverna, no, la Taverna nel senso il vicepresidente del Senato, le masse siano state per un certo periodo dalla parte della Taverna? Cosa ci abbiamo di meno? La sinistra di andare in Giappone. Sì, c'è anche questo. La sinistra mi ha tenuto quando avevo 20 anni con Lama e compagnia, mi ha tenuto 5 anni a lavorare nero, fino a che mi sono trattato in un lavoro destruito. Ma puttana dell'era, ma io posso avere da salvare questa esperienza di sinistra. Quella è il nemico, da quando avevo 20 anni, una montagna di appelli di rivendizione. È evidente che la classe operaia, come diceva in Montanotti nella sua barbarie, va dove gli sta di più. Se mi date l'Ovat e quando si pigliava serciate in le vetrine della Rimpaula, che sono state le ultime serciate volate a Firenze, no? Ci sarebbe tutti e tanti che erano in lista per andare in piazzare a dire che cazzo è stato. I PC, democrazia proletaria, i sindacati, di base, sono di più tanto. Ma non potevi essere altro, è dove va il tuo interesse. La sinistra cosiddetta, quella istituzionale, è evidente, ma c'è un sacco di centri sociali che hanno votato. È evidente che ora di più sì, tutte le volte di troppo, però hanno votato dicendo io che cavolo di te, non ti stai a casa e fatti un tempo, non c'entra, no? Per cui bisogna andare a votare. È stato eletto Zani, nemico alle porte, io voglio un po' pigliarsi in serio una destra che vuole perdere perché la valutazione della destra è troppo garantita. Giusto a Livorno è successo che gli hanno spiegato, guarda, ritorna nell'arco, una legislatura 5 Stelle e poi ritorna in PD, che ci si piglia per il culo, adesso succederà a Pitti. A Firenze chi comanda, cioè i palazzinari, e vuole il PC disposto a prendersi anche là il violinista sul tetto, speriamo che tale, perché il violinista sul tetto per la forza di gravità deve essere. Quindi non facciamo più questi discorsi. La sinistra in questo paese non c'è, e viva Dio me lo rivendo. Quando nel 90 c'era compagni di agenti e tascati di in Berlino, non so se te c'è la Venezia ai convegni internazionali, c'era tedeschi che agiano sembrati degli scarnati. Si è passata la vita a dire che là c'era una banda di stronzi, una generazione partita dai presupposti, che a est si faceva la rivoluzione per i diritti, a ovest si faceva la rivoluzione per il lavoro, rimetti insieme se avete rifatto l'internazionale. Trovato il muro sembra se non fanno poi avete anche sul caso, c'era vissuta da un monte di gente di tavolo, all'altà, anche un po' come se. Ma io la prima manifestazione che ho fatto era con l'invasione della Cerrova, che è la seconda per morte. Guarda, io volevo aggiungere un aspetto, poi se non ci sono altre questioni andiamo verso la chiusura, perché purtroppo ho un paio di telefonate di lavoro che devo fare. Quando si dice il capitale alle porte, invece il nemico alle porte. Marco Furia ha ricordato un aspetto importante, cioè il fatto che comunque noi siamo una generazione di compagni che ha guardato con liberazione la fine dell'esperienza dell'URSS, lo dico proprio senza problemi da questo punto di vista qui, e tutte le volte che oggi in questo pianeta ben diverso da allora, tutte le volte che rivendicano così la propria identità politica, vengono tacciati di nostalgici e filosovietici. È un po' dura questo punto di vista lì, no? Però questo per dire cosa? Che in un lasso di tempo piuttosto breve, le coordinate culturali di ciò che è sensato e ciò che non è sensato possono essere velocemente sconvolte. Questo è l'aspetto che conta. Cioè, ovvero sia che nel momento in cui ci troviamo a operare sul piano sociale e sul piano politico, ciò che ha senso velocemente può rovesciarsi nel suo contrario. questo è un aspetto che chi affronta questo tipo di processi deve tenere bene conto. Ecco, questo è un tipo di chiusura che faccio volentieri, e innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato. Finalmente ho potuto parlare all'aperto, che non sia il giardino, non so se mi spiego, no? In una dimensione pubblica, e spero che la discussione sia stata produttiva, insomma, vi porti argomenti di riflessione, e vi ringrazio di nuovo.